Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nuvole color piombo avvolgono il castello di Fotheringhay, perso nel cuore della campagna inglese. Sembra un gigante tetro ed è la prigione di Maria Stuarda, sovrana di Scozia. Ha sangue Tudor nelle vene ed è fedele al Papa. Per i sudditi cattolici spetta a lei la corona d'Inghilterra, ma sul trono inglese siede Elisabetta, che è di fede protestante. È figlia di Enrico VIII e della concubina Anna Bolena. Per i cattolici è un'illegittima regnante. Maria non sogna altro che la libertà. La tengono in segregazione da 18 anni e questo è il giorno che può determinare la sua fine. Al castello sta per iniziare il suo processo e l'accusa è di cospirazione contro la corona. La giuria è pronta e il segretario di Stato, Francis Walsingham, presenta le sue prove. Sono solo fogli, delle lettere, inizia a leggerle e Maria Stuarda vede calare dentro a sé l'oscurità. Risente le parole di un giovane pieno di coraggio che un giorno le avevano dato un'ombra di speranza, ma che ora sono un'arma puntata su di lei. Maestà, io stesso con 10 gentiluomini e un centinaio di sostenitori mi incaricherò di sottrarre la vostra regale persona alle mani dei nemici, per disfarci dell'usurpatrice, verso la quale in virtù della scomunica siamo esonerati dal dovere di obbedienza. Ci sono 6 gentiluomini, tutti miei amici fidati, che per devozione alla causa cattolica e al servizio a vostra maestà cospirano la tragica esecuzione. Servitore vostro devoto, Sir Anthony Babington, anno del Signore 1586. Maria stenta a capire come Sir Walsingham possa leggere la lettera. Per scrivere alla sua regina, Sir Babington usava un alfabeto di sua invenzione segreto, fatto di strani simboli al posto delle lettere o di frasi intere. E anche Maria lo usava per scrivere le sue risposte. Il vostro disegno mi preoccupa. Se la mia liberazione avviene prima o nel momento stesso dell'assassinio di Elisabetta, temo che la notizia del colpo di Stato giunga alle orecchie del mio carceriere e che egli decida di uccidermi senza porre indugio. Il corriere dei congiurati, Gilbert Gifford, è presente in aula. È lui il traditore al servizio di Sir Walsingham. Gli ha mostrato ogni lettera prima di consegnarla. Poi, alla segreteria di Stato, un uomo misterioso le ha decifrate. Il suo nome è protetto dalla totale segretezza, ma grazie a lui Maria Stuart si rivela una cospiratrice, fidandosi di un codice segreto, ha firmato da sé la sua condanna a morte. È il 1912 e in una lussuosa villa nei pressi di Chicago è in corso un gran ricevimento e un gruppo di invitati, mentre sorseggia lo champagne, fa capannello attorno a una signora con i capelli bianchi. Dal suo abito severo si capisce che non è avvezza alla mondanità, ma ad ascoltarla si resta affascinati. Si chiama Elizabeth Wells Gallop ed è una studiosa della storia inglese. Il regno di Elisabetta d'Inghilterra è al centro delle sue ricerche. In particolare va a caccia dei codici segreti usati in quel periodo. Anche il padrone di casa è vicino a lei per sentire i suoi racconti ed è molto incuriosito. È uno degli industriali più ricchi d'America e il suo nome è George Fabian. George Fabian. L'uomo protetto dal mistero nel processo di Maria Stuarda era Thomas Philippis. Era il decifratore più abile d'Europa e lavorava al servizio di Sir Walsingham. Scoprì la chiave dell'alfabeto di Babington e come per magia le lettere divennero leggibili. Pareva un'impresa impossibile e lo pensavano anche i congiurati e questo fu fatale alla regina di Scozia. George Fabian è colpito da questa storia. È figlio di un magnate dell'industria tessile e da suo padre ha ereditato non solo una fortuna ma anche un'impresa da gestire e proteggere dalla concorrenza, per cui anche lui ha elaborato un linguaggio segreto per trasmettere informazioni sul suo business. Ora sentire questa signora piena di sorprese è per lui un grande piacere. Io stessa ho scovato dei segreti nella vita di un personaggio che a quel tempo era molto in vista. Era membro del Parlamento inglese quando fu discussa la causa di Maria Stuarda. Ascoltava la congiura e intanto quel segreto gli bruciava il cuore. Sentire che qualcuno voleva uccidere la regina Elisabetta per lui significava un attentato alla vita di sua madre. Who's there to save the hero? Oh, oh, oh, who's there to Fabian è conquistato. Miss Wells Gallop lo sta trascinando in un mondo di misteri. Ricorda che Elisabetta d'Inghilterra era chiamata la Regina Vergine, sposata solo col suo regno. Quindi non poteva avere figli. Ma questa signora afferma di aver scoperto una verità molto diversa. La Regina Elisabetta è la mia vera madre e sono io l'erede legittimo al suo trono. Trovate l'intreccio cifrato contenuto nei miei libri. Raccontano grandi segreti. Ognuno di loro, se rivelato, potrebbe costare la mia vita. Francis Bacon. Miss Wells Gallop deve questa scoperta allo studioso Orville Ward Owen. Owen sostiene che il grande letterato Francis Bacon fosse nato dal matrimonio segreto fra Elisabetta e Robert Dudley, conte di Leicester, e che avesse rivelato la verità della sua storia nascondendola tra i versi e le rime delle sue poesie. Per comprenderla bastava un occhio attento. Ma tra i lettori di Bacon c'era Elisabetta e a lei non sfuggì nulla. Dato che era in gioco il suo potere, impedì con ogni mezzo che il segreto venisse alla luce e limitò al poeta la sua libertà di esprimersi. Ma lui continuò lo stesso a parlare di sé, mascherandosi sotto falso nome. Sono certa che giungerei a scoperte sensazionali se solo potessi studiare certi libri di quell'epoca con la tecnologia e i metodi adeguati. Tecnologia avanzata al servizio della conoscenza è un principio che suona familiare al padrone di casa. Nella sua tenuta di Riverbank, nei pressi di Chicago, ha fatto costruire dei laboratori all'avanguardia dove si compiono ricerche sulla produzione agricola, poiché la coltivazione del cotone è al centro del suo business. Ma Fabian non è solo un uomo d'affari, è anche un gran sostenitore della scienza e ha trasformato Riverbank in un centro di sperimentazione nei campi più disparati, chiamando attorno a sé grandi ricercatori. Sapete, alcuni uomini agiati come me si dedicano alle collezioni d'arte o passano il tempo sulla riviera o scelgono di vivere in modo stravagante e questo li sazia. Io invece non mi stanco mai di esperimenti scientifici. Per le università molte ricerche hanno costi proibitivi, così io investo il mio denaro per scoprire cose che hanno un valore. Per me la conoscenza non è mai troppa. La studiosa sente che tra loro due sta nascendo una complicità basata sul gusto della scoperta e si decide a confidargli il vero obiettivo delle sue ricerche. Francis Bacon inventò un alfabeto cifrato per nascondere segreti nelle sue opere, ma secondo Owen questo alfabeto si trova anche nei libri di un suo contemporaneo, il grande William Shakespeare. Se è così, significa che anche quelle opere in realtà sono di Bacon, ma si firmava con un falso nome. Molti studiosi lo sostengono, Mr. Fabian. Quello di William Shakespeare è solo un mito e io sento di poterlo dimostrare. Fabian ha un animo avventuroso, ma un Amleto firmato Francis Bacon è un'ipotesi azzardata perfino per lui. È ancora immerso in questa fantasia decisamente audace quando scorge sulla veranda un caro amico, William Selig. Viene dalla California, è un produttore cinematografico e proprio in quei giorni sta trattando i diritti per un nuovo film. Fabian stenta a credere alla coincidenza. Il titolo della pellicola è La vita di Shakespeare e dovrà celebrare i 300 anni dalla nascita del grande commediografo. L'industriale ride sotto i baffi perché capisce di poter fare a Selig un bello scherzo. Già immagina la battaglia sui giornali mentre esce il film e lui intanto pubblica un libro dove capovolge tutto, dando le prove che l'autore di Stratford-upon-Avon è una personalità fittizia. Sarebbe lo scoop più eccitante del secolo. Prima di congedarsi, rivolge alla studiosa un ultimo saluto e intanto sigla con lei un patto. Consideratemi vostro amico in questa avventura. Avrete tutti i mezzi che vi necessitano e da ora Riverbank è casa vostra. A Miss Wells Gallop serve un aiutante e a questo provvede Fabian in persona. Deve essere un'esperta di letteratura shakespeariana e la trova alla biblioteca Newbery di Chicago. Si chiama Elizabeth Smith. Fa proprio al caso suo e la coinvolge subito, ma la squadra non è completa. Ci vuole un fotografo per riprodurre il First Folio, un prezioso volume di Shakespeare che la studiosa vuole analizzare. Nel frattempo, a Riverbank arriva un nuovo scienziato per dirigere il dipartimento di genetica. È un ricercatore brillante e ha conoscenze approfondite nell'agraria, ma non solo. Fabian viene a sapere che ha un gran talento per la fotografia. Decide che sarà lui il terzo della squadra. Il suo nome è William Friedman. William Friedman. William Friedman non è solo uno scienziato dalla mente brillantissima, è anche un profondo amante della letteratura. Passa la vita fra microscopi e calcoli statistici, ma nel tempo libero si immerge dentro ai libri, una passione che è sbocciata in lui fin da ragazzo. Devo tutto a Edgar Allan Poe. Conoscete il suo racconto Lo Scarabeo d'Oro, Mr. Fabian? Narra del ritrovamento di un tesoro, ma le coordinate del suo nascondiglio sono in un messaggio in codice. Lo lessi che ero piccolo e ho passato le mie notti in gara con l'autore per risolvere l'enigma prima del protagonista, ma poi ovviamente mi ha battuto sul tempo. Tuttavia, ha lasciato tracce profonde in me. In fondo, anche studiare la genetica è come avventurarsi in un gran mistero, quello della vita. Quando George Fabian propone a William Friedman di affiancare Miss Wells Gallop nella sua ricerca, Friedman stenta a credere alla sua fortuna. Un'avventura letteraria con codici da decifrare. Che cosa può esserci di meglio? Nel cifrario di Bacon, ogni lettera dell'alfabeto diventa una semplice sequenza di A e di B. Il segreto è come si alternano. Ad esempio, la F di Friedman diventa A-A-B-A-B. Oppure nel caso di Miss Smith, la S diventa B-A-A-B. Nei suoi libri queste sequenze di A e di B sono nascoste dentro ad altre parole, ma hanno una tipografia particolare. Il nostro lavoro sarà cercarle anche nel First Folio di Shakespeare. Friedman si sente un investigatore tuffato nella storia e in più lavora molto volentieri con Miss Smith. Tra loro nasce una simpatia che presto diventa amore e in capo a qualche mese i due convolano a nozze. George Fabian osserva il gruppo che lavora e capisce che lo studio sistematico di codici e cifrari potrebbe dare grandi frutti. È l'embrione di una nuova disciplina che merita di svilupparsi. Ci vuole un dipartimento dedicato e Fabian vuole che sia Friedman a dirigerlo accanto a quello di genetica. Lo scienziato accetta senza riserve e il suo pensiero va ancora a Edgar Allan Poe. Poe aveva battezzato crittografia l'arte di scrivere in modo nascosto. È una pratica antichissima. Bene, Mr. Fabian, vuol dire che noi studieremo scientificamente la crittografia e a questa scienza daremo il nome di criptoanalisi. Sua moglie Elizabeth è una delle menti più brillanti che conosce ed è felice che sia accanto a lui mentre crea il nuovo dipartimento. Quella per i codici segreti è una passione che li intriga così tanto da volerla condividere anche con gli amici organizzando delle sfide. Sono serate molto divertenti e ovviamente anche George Fabian è tra gli invitati. Le chiamiamo cene in progressione. Gli ospiti arrivano a casa nostra, formiamo delle squadre e a ognuna diamo un foglio con una serie di codici. Il segreto è decifrarli per scoprire il nome del ristorante, poi il menù e così via. Dopo la cena ci ritroviamo qui e a quelli che hanno trovato le soluzioni diamo qualche premio. Sono certo che vi piacerà, Fabian. Questi party hanno un gran successo. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo in America, sul fare degli anni 20, in compagnia dello scienziato William Friedman e del magnate George Fabian. Friedman è un esperto di genetica e le sue ricerche sono essenziali per il business di Fabian. Ma l'industriale lo ha coinvolto anche in una stravagante avventura accanto alla studiosa Elizabeth Wells Gallop, per scoprire se nelle opere di William Shakespeare si nasconda un cifrario segreto. Mentre i ricercatori sono all'opera, Fabian capisce che lo studio sistematico dei cifrari e dei codici segreti merita un'attenzione approfondita e decide di aprire nei suoi laboratori a Riverbank un nuovo dipartimento, tutto dedicato allo studio della crittografia. È William Friedman a dirigerlo e ha deciso che la nuova scienza si chiamerà criptoanalisi. Mentre Friedman dà alla sua disciplina basi sempre più solide, in Europa si accende la miccia di un conflitto che raggiunge proporzioni mondiali. È un limpido giorno d'aprile del 1917 e George Fabian è nella tenuta attorno alla sua villa. Ha bisogno di riflettere, il momento è grave. Il presidente Wilson ha presentato al Congresso una proposta drammatica: entrare nel vivo del conflitto contro la Germania. Fabien è al corrente della proposta da alcuni giorni e pensa che verrà accettata. Ha contatti molto stretti col governo e questo già da 10 anni. Quando l'America si è offerta in ruolo di paciere fra le due nazioni, Russia e Giappone, perché mettessero fine alla loro guerra, Fabien non ha esitato a mettere al servizio del suo paese la sua esperienza nelle relazioni con i giapponesi e si è distinto come brillante diplomatico. Ha reso onore alla sua nazione in quegli accordi a Portsmouth e anche ora sente che la sua patria ha bisogno di lui. Sa già che cosa ha da offrirle. È Riverbank e il dipartimento di criptoanalisi di Friedman. William, voglio farle una proposta impegnativa. Ho mostrato i suoi lavori sulla criptoanalisi al Ministero della Guerra e concordano con me. Lei può fare molto per i nostri soldati che dovranno combattere in Europa. Intercettare le comunicazioni sul campo e decifrarle può salvare molte vite. C'è bisogno di ufficiali esperti nella decifrazione e nessuno può formarli meglio di lei. William Friedman ha un'occasione unica, aiutare il suo paese in guerra, ed è Fabien a dargli questa opportunità. Lo scienziato non si tira indietro, raccoglie la sfida e nel suo laboratorio addestra intere squadre di ufficiali. Viene anche lui mandato in guerra e mentre è in Francia, Fabien continua a muovere le acque a Washington. Dimostra al governo quanto le sue competenze nella criptoanalisi siano strategiche e insiste perché resti un formatore dei militari. Quando torna la pace, la vita di Friedman cambia definitivamente. Si divide fra ricerca e corsi di addestramento, fino al giorno in cui gli arriva una proposta: creare un'unità speciale a Washington. È il 1929, Friedman è a capo dell'SIS, Signals Intelligence Service, e il suo compito sta per diventare molto delicato. Il nuovo presidente è Herbert Hoover e vuole dare un nuovo corso alla politica estera con relazioni basate sulla fiducia e sulla trasparenza, piuttosto che su manovre di spionaggio. Questo significa togliere i finanziamenti alla Black Chamber, una misteriosa stanza di New York dove lavorano 20 criptoanalisti al servizio del governo sotto la direzione di Herbert Yardley e dove per anni è stata aperta, controllata e risigillata la posta segreta proveniente da tutto il mondo. La Black Chamber è una camera nera, blindata, nascosta, protetta. Vede tutto e tutto ode. Nonostante le imposte chiuse e le finestre schermate da pesanti tendaggi, i suoi occhi d'aquila penetrano le segrete sale di riunioni di Washington, Tokyo, Londra, Parigi, Ginevra, Roma e il suo udito sopraffino percepisce i minimi bisbigli provenienti dalle capitali di tutto il mondo. Mentre la Black Chamber viene svuotata, i suoi file sono già in viaggio verso Washington. Li gestirà l'SIS e sarà Friedman il supervisore. Per lui diventa necessario formare nuovi esperti e farne i suoi più stretti collaboratori. Il primo della nuova squadra lo ha già individuato. È un matematico molto promettente. Il suo nome è Frank Rowlett. Nei nostri primi scambi di battute, molto sulle generali, Friedman mi domandò se ero mai stato a Washington e se avessi già un posto dove abitare. Fu una conversazione molto semplice. Quando gli chiesi cosa avrei dovuto fare come criptoanalista, mi rispose: «Vuol dirmi che non sa cos'è un criptoanalista?» Gli dissi che quella parola non l'avevo mai sentita e lui distolse lo sguardo e rispose: «Beh, non è poi tanto strano, l'ho appena inventata». Il mondo è nuovamente sconvolto dalla guerra e il compito di Friedman è garantire agli ufficiali americani un'apparecchiatura per trasmettere messaggi in tutta sicurezza. È un lavoro di alta ingegneria, ma assieme a Frank Rowlett, lo scienziato mette a punto una macchina scrivente più che sicura, il cui nome in codice è SIGABA. Presto però sorge un'altra priorità. I rapporti fra l'America e il Giappone sono sempre più difficili e l'SIS ha ordine di controllare le comunicazioni radio giapponesi e soprattutto i messaggi diplomatici da Tokyo. Mai come ora Friedman rimpiange di non poter chiamare accanto a sé George Fabien. La sua esperienza e la sua conoscenza della lingua orientale sarebbero vitali. Ma Fabien è scomparso da pochi anni e solo i files ereditati dalla Black Chamber sono di qualche aiuto. Vengono craccati i primi codici, presto però il linguaggio cambia e diventa incomprensibile. A Tokyo hanno inventato un codice nuovo che l'SIS battezza Purple e per attaccarlo serve un'operazione di intelligence mirata. Ovviamente in quel periodo collaboravamo con la Marina Militare e tutti eravamo molto preoccupati per questa nuova apparecchiatura e il suo codice, che abbiamo chiamato Purple. Abbiamo raggiunto qualche buon risultato nelle prime settimane, ma non tanto da rompere il codice del tutto. La sola chance è avere la stessa macchina scrivente usata dai giapponesi, assieme a un'altra collegata che riceva il testo e lo traduca in chiaro. Friedman deve ricostruirle entrambe, ma sotto mano non ha prototipi o un ingranaggio da smontare per copiarlo, solo delle frasi incomprensibili in lingua giapponese. Sua moglie Elizabeth lo vede consumarsi su quel rompicapo. Saltava i pasti e le notti, oppure si svegliava all'improvviso e cominciava a scrivere o a pensare. Temevo che non avrebbe retto. Alternava momenti di speranza allo sconforto. Provava e falliva. Per lui era uno shock dietro l'altro. Ma non aveva alternativa, doveva reggere. E tutto questo mentre lavorava nella totale segretezza. Friedman come strumentazione non ha che carta, penna e una calcolatrice. Ma è nel suo genio la risposta. Capisce che il segreto della macchina è un sistema di impulsi elettrici e la scommessa è combinarli nella sequenza giusta, la stessa delle apparecchiature a Tokyo. Lavora senza sosta con Frank Rowlett e il collega Leo Rosen e finalmente due macchine da scrivere, zeppe di cavi, relè e spinotti sono pronte. Ora basta testarle. È il momento della verità. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo in America nel 1940 e lo scienziato William Friedman è davanti a una sfida che ha dell'impossibile. È al comando dell'SIS, l'unità segreta di spionaggio che ha creato dopo che il magnate George Fabian lo ha accreditato presso gli ambienti governativi e militari. Ora l'America teme che dall'Oriente possa giungere un attacco e Friedman ha una priorità assoluta: decrittare messaggi segreti giapponesi. Un nuovo codice emesso dalle scriventi a Tokyo, denominato Purple, resiste a ogni tentativo di decifrazione. E per Friedman l'unica soluzione è ricreare le stesse macchine usate dai potenziali nemici per le comunicazioni top secret. È un'impresa titanica, ma lo scienziato ha riprodotto quelle apparecchiature senza aver mai visto gli originali. È il momento del test finale, ora saprà se ha vinto la sua sfida. Stavo lavorando con Rosen ed erano circa le 6:30, le 7 di sera. E volevamo finire, avevamo lavorato tanto e non riuscivamo più ad aspettare. Avevamo a disposizione alcuni messaggi dei giapponesi che furono battuti sulla prima macchina per ricomparire in chiaro su quell'altra. E noi conoscevamo già il loro contenuto perché li avevamo decifrati prima manualmente, quindi sapevamo cosa doveva venir fuori. E poi d'improvviso la macchina ha smesso di funzionare. Eravamo sconcertati, ma Rosen concluse che non avevamo fatto una cosa. C'era bisogno di mettere un condensatore sui relè. Così lo ha installato. Eravamo pronti. Ora potevamo mostrare cosa avevamo fatto a Friedman, al generale Laken e a tutti quelli della catena di comando. Le due macchine iniziano a dialogare e i messaggi della diplomazia giapponese coperti dal massimo segreto svelano il loro contenuto. È un successo. L'impresa epica di Friedman, dopo un anno e mezzo di tentative estenuanti, è giunta alla sua conclusione e la reazione è unanime. Stupore e una gran soddisfazione. Friedman però è esausto, ha un tracollo nervoso. Viene ricoverato al Walter Reed Hospital per 3 mesi e la sua cartella clinica parla di esaurimento. Il motivo è tenuto sotto segreto. Purple è una conquista enorme. Ora è possibile controllare le comunicazioni diplomatiche tra Tokyo e le ambasciate in tutto il mondo e sapere se ci sono accordi per attaccare gli Stati Uniti. Intanto la politica espansionista del Giappone contro l'Indocina diventa sempre più aggressiva e la reazione del governo americano è decisa. Congelamento dei beni e un pesante embargo petrolifero. La tensione tra i due paesi aumenta, vengono aperte delle trattative, ma ogni sforzo diplomatico giunge a un punto morto. Nel frattempo, il lavoro all'SIS è incessante, fino a un giorno che Friedman non può dimenticare, il 7 dicembre 1941. All'1:28 del mattino i giapponesi inoltrano un messaggio alla loro ambasciata, a Washington, e a intercettarlo fu una stazione della Marina americana vicina a Seattle. Ce lo inoltrarono e riuscimmo a tradurlo alle 7 del mattino. L'esperto in lingua giapponese era il luogotenente Alvin D. Kramer e capì subito la gravità del testo. I giapponesi avevano stabilito di rompere le trattative. Friedman capisce che sta per succedere qualcosa e l'SIS si allerta. È lo stesso Kramer a gettarsi in una corsa disperata tra le vie di Washington mentre la città si sveglia e gli uffici sono ancora chiusi. Nessuno sa se l'ambasciatore giapponese ha già in mano quel messaggio ed è importante che giunga subito al governo americano. La rottura delle trattative può significare la premessa di un attacco. Sono le 7:58 e senza alcun preavviso ufficiale da parte del Giappone, quella minaccia si traduce in drammatica realtà. Incursione aerea su Pearl Harbor. Questa non è un'esercitazione. L'attacco inferto dal Giappone a Pearl Harbor è un dramma per il suo paese, ma Friedman sa che la criptoanalisi può diventare un'alleata nella rivincita. Mentre gli uffici di Tokyo sono tenuti sotto costante sorveglianza grazie al codice Purple, viene decrittato anche il codice navale giapponese JN-25. La battaglia dei codici segreti è vinta su due fronti e la resa dei conti è alle isole Midway, dove il Giappone conosce una sconfitta bruciante. Ma la Seconda Guerra Mondiale prosegue e la macchina Sigaba continua ad affiancare le forze americane trasmettendo ordini che nessuno riesce a decifrare. E grazie a Purple, gli Stati Uniti sono spesso i primi a conoscere le intenzioni di Hitler e a comunicarle agli alleati. È il 1955 e William Friedman ormai è in pensione dopo una carriera che il presidente Truman ha voluto premiare con la medaglia per la sicurezza nazionale. In cuor suo quella medaglia l'ha dedicata a due uomini, George Fabian e un vecchio amico conosciuto da ragazzo. È Edgar Allan Poe che con una frase ormai celebre ha continuato a sorreggerlo anche nei momenti bui. Gli ha dato la certezza che sarebbe giunto a una soluzione. È veramente da mettere in dubbio che l'intelligenza umana possa creare un cifrario che l'ingegno umano non riesca a decifrare, con la necessaria applicazione. Gli intrighi letterari non hanno mai smesso di affascinarlo, e ora che ha più tempo ha deciso di riprendere con sua moglie Elizabeth la ricerca di Miss Wells Gallup. 30 anni di criptoanalisi gli hanno insegnato molto, e solo ora giunge alla conclusione. No, Francis Bacon non era William Shakespeare. Ma l'anziana studiosa Friedman deve molto. Gli ha permesso di conoscere il cifrario di Francis Bacon, così geniale e moderno, un codice che alternava due semplici lettere, ma ha dato a noi la chiave per il linguaggio del futuro. Di fatto, Bacon fu l'inventore del codice binario, che è alla base dei moderni computer. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.